Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Puntata in replica. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, ma allora se siete qui è me che volete. Sono una donna molto fortunata e voi, lasciatevelo dire, siete dei veri buongustai. Quindi accomodatevi e che la festa cominci. Auguri a voi e auguri ad Attilio Speciani che è qui con me. Abbiamo passato insieme il Natale, ci siamo trovati bene, dottor Speciani, e abbiamo deciso di ripetere l'esperimento. Anche lei è un buongustaio. È stata un'esperienza splendida e non facciamo che ripeterla, poi abbiamo cose buongiorno bellissime. Buongiorno e buona Pasqua, buona domenica. Le feste di Natale e di Pasqua celebrano due momenti cardine della cristianità, scandiscono il succedersi però anche delle stagioni. Natale segna il passaggio tra l'autunno e l'inverno e la Pasqua celebra la primavera. Infatti la primavera viene anche proposta e festeggiata anche nei piatti della tradizione. Dottore, è una tavola che sprizza vitalità, quella di Pasqua. È bellissima, è bellissima. Poi dai, come tipo di festività in realtà è una riconnotazione, ricollocazione di una festa assolutamente agricola. È la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera, il motivo per cui si muove avanti e indietro nel corso dell'anno, Pasqua alta, Pasqua bassa, eccetera. Ed è bellissimo perché quando ci si avvicina compaiono le gemmine, è bello, bello. E questo fa venire voglia, ovviamente, anche nei piatti, di raccogliere il vigore, la forza di questa natura che prorompente sta iniziando a dare forza. E poi lo dico per tutti quelli che in realtà oggi saranno un po' preoccupati del cosa mangio, cosa non mangio. Che bello, perché è il momento in cui anche gli animali diventano più asciutti, più tonici, perdono il pelo vecchio, sono bellissimi. Dai, pensiamo in termini di metabolismo. Allora, oggi ci sediamo alla tavola della bufala in tavola e parliamo di gusto, di salute, dottor Speciani, mi aiuti lei con le parole chiave, di rinnovamento. Ma che bello, sì, piace. Di metabolismo, di metabolismo, stimolo vitale, di stimolo. Di energia. E naturalmente tutto questo lo faremo anche con un occhio alla tradizione, alla storia, e quindi in linea con noi per festeggiare un pezzetto del pranzo di Pasqua insieme è tornato a trovarci Alessandro Marzomagno. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno, anzi ti dico buon dì perché anch'io so a Venezia. Oh, così che fortunello! C'è un traduttore. Un saluto goldoniano. Alessandro. Buongiorno a tutti e tanti auguri. Alessandro Marzomagno è un giornalista e un esperto anche di tradizione e cultura gastronomica, autore del Genio del Gusto, e con Alessandro vogliamo proprio parlare un po' delle tradizioni pasquali, perché come anticipavamo con il dottor Speciani, il menù pasquale richiama i colori, i sapori, i prodotti della primavera. È tempo di piselli, di asparagi, di erbe di campo, ma andiamo per ordine perché il simbolo dell'unità, della perfezione, che è anche protagonista di molte ricette del periodo pasquale, direi che è l'uovo, Alessandro. Ma certo, l'uovo, c'è una constatazione molto banale che bisogna tenere presente nei menù di Pasqua, sì, che le galline cominciano a fare le uova in primavera, perché questa è una cosa che ci siamo completamente dimenticati, perché noi andiamo al supermercato e troviamo le uova tutto l'anno. Ma un tempo non era così, e quindi si cominciavano a fare le uova, gli agnelli cominciavano a fare il latte, si faceva il formaggio, e soprattutto era la grande festa di uscita dalla Quaresima. In Quaresima si mangiava in bianco e non si poteva mangiare carne, non si potevano mangiare latticini, non si potevano mangiare uova. Pensate addirittura che nel Rinascimento facevano le uova finte, ovviamente chi se lo poteva permettere, facevano le uova con la pasta di mandorle, la pasta di mandorle bianca imitava l'albume, colorata con lo zafferano imitava il tuorlo. Allora a Pasqua era una vera e propria esplosione, e quindi c'erano le uova, c'erano le erbette, c'era il formaggio, e quindi si cominciava a si faceva a fare festa, preparazioni di questo genere. Sì, anche perché non è che la Quaresima fosse poi una scelta, la Quaresima, te lo dico, prima parlato in Veneto, era niente durante la Quaresima nell'antichità, cioè non c'era niente da mangiare, quindi finalmente molti ricompariva qualcosa da mangiare durante tutto l'anno, e quindi l'occasione l'occasione della Pasqua, il fatto appunto che era la festa, no? Il fatto che le galline avessero ricominciato a fare le uova, era un'occasione per mangiare delle preparazioni che altrimenti non si riuscivano a trovare. Ci sono delle ricette straordinarie proprio pasquali, dove l'uovo è protagonista, lo infilano nei ripieni, poi le frittatine, poi le uova sode che si portano per fare pasquetta, per il picnic. Ma per esempio il casatiello napoletano ha le uova sode dentro, no? Anche la torta pasqualina genovese. Con i carciofi e la borragine. La torta pasqualina poi, tra l'altro, a parte che ha anche il nome significativo, ma riassume in sé tutto quello che di nuovo c'è a Pasqua, no? Perché ci sono le uova, le erbette, insomma le bietole appena nate, appena cresciute, il formaggio, la preciosa, che è appunto anche questo è ripreso dalla lattazione a primavera, e la borragine, che sono le erbe aromatiche appena nate. È proprio la quintessenza della Pasqua. E certo, e quindi diventa protagonista Pasqua. Ma dottor Speciani, guardiamolo un po' questo uovo, che bellissimo. È perfetto, ma è stato a lungo accusato di una serie di colpe che poi naturalmente sono state smentite. Ma intanto, a proposito di bufale, anche sull'uovo ne sono circolate tante. Ah, guarda, ci sono degli elementi tali per cui la scienza si sta rimangiando tutto quello che è stato detto di cattivo sull'uovo. Tra l'altro mi piace questa idea che in realtà per fare le uova finte, come diceva Alessandro prima, si usassero le mandorle, proprio perché è un elemento di riferimento al contenuto proteico. L'uovo è uno dei contenitori. Quindi non sbagliavano. No, fantastico. ma in genere la natura difficilmente sbaglia. Quindi abbiamo un contenuto proteico estremamente positivo. Significa che abbiamo 12 grammi di proteine ogni due uova, di quelle medie, che piccoline, non quelle enormi. Che troviamo in giro, e abbiamo un contenuto di grassi ben bilanciato, perfetto, degli elementi fantastici. La cosa fondamentale è che per anni, proprio perché era uno perfetto, piccolino, eccetera, è stato bombardato di messaggi negativi. Oggi sappiamo che il colesterolo, ad esempio, è legato molto di più ai picchi glicemici, all'eccesso di carboidrati che noi mangiamo senza un bilanciamento corretto, quindi all'eccesso di zuccheri, e non invece al colesterolo che mettiamo dentro mangiando. Quindi viva l'uovo! Viva l'uovo! Le uova, ne mangiamo più di uno. Tra l'altro, dottor Speciani, agli sportivi l'uovo piace molto, soprattutto l'albume. Adesso vendono anche proprio delle confezioni l'albume. Sono assolutamente contrario, perché anche nel tuorlo, rosso, giallo che sia, ci sono proteine ottime, e devo dire che questa usanza del solo albume è nata proprio quando, ad esempio, chi ha scoperto la zona, Barry Sears, con cui ho scritto peraltro anche un libro ancora tanti anni fa, in America, ha detto non poteva dire mangiamo le uova, perché c'era ancora questa colpevolizzazione del colesterolo. E quindi ha detto mangiamo l'albume che non ne contiene. In realtà anche il tuorlo contiene un mucchio di proteine buone, vitamina D e un mucchio di cose positive. Tra poco ne parliamo anche con un amico anche del dottor Speciani. È un cuoco sopraffino che oggi cucinerà per noi. Dai, che bello. Noi andiamo a disturbarlo mentre in cucina, nella sua cucina. Facciamo Dai. Un po'... Intanto noi lo chiamiamo, andiamo a fare una piccola pausa e poi di nuovo insieme, tutti insieme a festeggiare la Pasqua. Grazie che ci avete scelto. Avete buon gusto. A tra poco. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. La gallina coccodè, spaventata e mezza all'aia, fra le vigne e i cavolfiori mi sfuggiva Gaia. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Io voglio voi, se voi volete me, anzi noi, restate con me, accomodatevi, c'è posto. Insieme a me oggi, Attilio Speciani. Buongiorno ancora. Parliamo di tradizioni gastronomiche della Pasqua e curiosità con Alessandro Marzomagno, giornalista, esperto, autore di Il Genio del Gusto, che ci sta raccontando quanto gusto e quanto sapore sono presenti nelle tradizioni che portano la Pasqua a tavola. E poi andiamo a dare una sbirciatina in cucina, nella cucina di Sergio Barzetti, che è in linea con noi. Sergio, ciao! Pronto, ciao a tutti, buona Pasqua, ciao Attilio, ciao a tutti. Ciao. Sergio, stai cucinando, immagino. Beh sì, no? In realtà mi sto preparando a mangiare. Io mi sono allargata un po', e quando il dottor Speciani ricordava tutte le virtù nutrizionali dell'uovo, certo, di questo alimento così completo, io ho detto vabbè, perché dicendo no, bisogna mangiare tuorlo e albume insieme, perché io non voglio giusto dividerli. Assolutamente, io ho detto, c'è un concetto di unitarietà, di unum. A me invece è venuto subito in mente l'uovo che si fa cuocere, poi si divide, si toglie il tuorlo per mescolarlo con maionese, poi lo riusi. Per fare le famose uova ripiene, di cui il dottor Speciani ci darà naturalmente un commento nutrizionale, ma intanto sono un classico della Pasqua. Sì, sì, sì, direi di sì, è il classico della mia mamma in realtà, infatti io in cucina comunque le ripropongo sempre anche ai clienti, perché è un classico e quindi come tale deve essere fatto proprio a regola. Dai, dacci veloce la ricetta, casomai qualcuno dei nostri amici fosse un po' a corto di idee, anche perché è una ricetta molto veloce, che fa scena, come si dice, ed è veloce, rapida e la sappiamo un po' fare tutti. Sì, sì, direi che però parte da una cosa fondamentale, che è la cottura, che è la cottura dell'uovo, perché non è poi così semplice. Ognuno dice la sua, ognuno al suo verso, e non è poi così semplice. Qui abbiamo di fronte un uovo sodo, sentirete sul sottofondo addirittura polli, perché io sono nella mia cucina di casa. E hai polli nella casa? Ho Polly, che è il mio pappagallo. Ah, pensavo Polly che razzolavano. Polly, qui giochi sugli accenti, No, è Polly che è il mio pappagallo, e quando parlo di uova lui un pochettino si innervosisce. Pensa che parli di qualcosa di suo. No, allora qui siamo di fronte a un problema importante, che è la cottura dell'uovo, che è la cosa più semplice al mondo, ma che però, insomma, ha la sua importanza. Quindi qui si parla di uova sode, giusto? Quindi uova sode che devono essere fatte rassodare, partenza d'acqua fredda, e poi tutte le tecniche. Si parte dall'uovo perfetto di Gualtiero Marchesi, no? Io spesso utilizzo... Eccolo lì, Polly. Senti Polly che suona dietro. Dai, senti, ci fa gli auguri di Pasqua anche lui. Gli auguri di Pasqua. Qui ho Polly, qui ho Anita, la mia bimba, che è un'esperta, e poi vi spiegherò come lei fa a sbucciare le uova. È un segreto che sicuramente serve. Ma torniamo sull'uovo sodo. Uovo sodo, 8-9 minuti dalla ripresa dell'ebollizione dell'acqua, quindi partenza d'acqua fredda. Ma 8-9 perché? Perché parte da un uovo a temperatura ambiente, non a temperatura frigorifero, perché altrimenti ci metterebbe di più, altrimenti rischierebbe di crepare. Bravo, le mie si crepano sempre. Quindi fate attenzione, magari non tolte dal frigo, tenute a temperatura ambiente, poi messe in acqua fredda, e dall'acqua fredda la ripresa dell'ebollizione si calcolano i minuti. Quindi 8-9 minuti per un uovo sodo, altrimenti fate la tecnica che uso io, che è un po' appunto l'uovo perfetto di Gualtiero Marchesi, e lui insegnava a mettere l'uovo partenza ad acqua fredda, dopo 3 minuti di ebollizione lo si spegne, se lo si va a raccogliere abbiamo un uovo alla cocca, altrimenti se lo si lascia all'interno dell'acqua fino all'acqua a raffreddamento avete un uovo perfetto, quindi senza... Proverò questa verdognolo verdastro. Ecco, questa seconda versione. Ma sì. Dottor Speciani, sull'uovo sodo, lei che cosa mi ha preparato? Dico delle cose ottime, perché l'uovo sodo, in realtà, a parte che fa parte spesso non solo delle mie colazioni, ma siccome la difficoltà di trovare in giro qualcuno in un bar quando sei di fretta, eccetera, che ti dà delle proteine, a volte me ne faccio uno o due e me le porto in borsa e li mangio, perché una mezza mela, qualcosa, quando sei in giro le trovi. Non è il caso di oggi. Però a Venezia si trovano, vero Alessandro, nei bar ancora le uova sode? Ma certo, uno dei cicchetti cicchetti classici che si vedi io che sono una conoscitrice di cicchetti, mezzo uovo sodo con l'acciuga. Mezzo uovo sodo con l'acciuga. Fantastico. Era proprio una cosa dei tempi antichi, anzi adesso se ne trovano sempre meno perché preferiscono fare cose più elaborate, eccetera. Però io lo trovo meraviglioso, l'uovo sodo con l'acciuga è buonissimo. Beh, riesce ad aggiungere il sale senza aggiungere il sale. Io quando ero piccolo mi ricordo che c'erano nei bar le uova che si dovevano rompere, c'erano i salini di fianco e questa, l'acciuga, è un modo di mettere il sale in modo gentile e direi con un abbinamento di gusti non male. Sergio, cosa dici? Sì, che anche un gusto... di conferire sapore, perché poi l'acciuga è buonissima, insomma, come messa assieme a varie cose davvero conferisce un sapore molto, molto buono e che piace, insomma. Ma Alessandro, io torno da te a Venezia perché certo una Pasqua veneziana non mi dispiacerebbe per nulla. Che cosa mangiate a Pasqua a Venezia? Perché abbiamo un po' così raccontato le tradizioni, ma ci siamo fermati perché l'uovo ha rubato la scena, come giusto che sia. Sì, non ci sono le uova di mare a Venezia, no, ci sono il pesce che si chiama gallinella, che noi chiamiamo però qua lo chiamiamo pesce angelo. Vabbè, pesce angelo per domani lo facciamo. Esatto, dai. Lo mangiamo domani. Domani lunedì dell'angelo, abbiamo già pronta la ricetta. No, sai, oltre che la rinascita della terra, c'è anche la rinascita del mare, quindi a Pasqua cominciano a esserci per esempio le seppie novelle. E cominciano a esserci dei pesci, insomma, che appunto è primavera anche per loro. Compaiono sulle tavole di Pasqua. Poi c'è il classico delle seppie col nero, no? Noi chiamiamo seppie in teccia, che sono le seppie fatte con l'inchiostro. E hanno un brutto colore, ma sono buonissime. E poi non manca mai il baccalà, ovviamente. Il baccalà mantecato, proprio il baccalà alla veneziana, che è una cosa sopraffina, perché baccalà è olio, baccalà battuto, girato, mescolato insieme all'olio finché non assorbe l'olio. Si faceva a mano, adesso si fa col frullatore, però fatto a mano devo dire che è molto faticoso ma molto più buono. Vedi, così anche uno brucia un po' di energia, dottor Speciani. Sì, poi perché... uno si mette, se è lì, mette di fianco un aperitivo tra una battuta e l'altra. Sono goderecci, goderecci sì, magari, questi dottori. Magari con lo spritz, no? Mantecato con lo spritz va benissimo. Allora, intanto io saluto Alessandro. È stato inventato a Venezia e non a Padova, eh? Dici questa, Alessandro, prima di salutarci. No. Tanto che a Pasqua bisogna essere buoni, mettiamo i puntini sulle i? Esatto. E qui attribuiamoci questa invenzione. No, scherzo, adesso non me ne voglio di padovani perché potrebbe nascere un putiferio. Però è già nato, sento già della gente che è stato inventato. Però allora tu sostieni in questa domenica di Pasqua alla bufala in tavola, e quindi attenzione perché qua dobbiamo smascherare le bufale, che lo spritz è stato inventato non a Padova bensì a Venezia. Ma no, la verità è che non si sa, e quindi è assolutamente legittimo che sia i padovani sia i veneziani se ne attribuiscano l'invenzione, perché non si sa con precisione dove sia stato inventato. Una cosa è certa, invece, il Bellini è stato inventato da Arrigo Cipriani, e super veneziano. Questo non c'è dubbio. Su questo non ci piove. 1949, l'anno in cui c'era la mostra di Bellini a Venezia, quindi gli ha dato questo nome. Ecco, però bisogna aspettare un po' perché le pesche non ci sono ancora. No, e noi siamo sulla stagionalità, potremmo farlo con le fragole, ma... Allora, intanto Alessandro... Allora non è più Bellini, è un Fragolini, un Rossini. Esatto. Alessandro, grazie per essere stato con noi, buona Pasqua. Grazie, tanti auguri a tutti. Grazie, grazie. Ciao, e soprattutto ai padovani, che non vorrei aver offeso. Padovani, tutti invitati qua, alla bufala in tavola. Tutti allora, invece, Sergio, ci hai insegnato a cuocere l'uovo, perché uno dice, è semplice come cuocere un uovo. Beh, dipende. Ma io vorrei che tu ci dessi la tua ricetta di uova ripiene, perché è una ricetta semplice, generosa, anche non solamente dal punto di vista così nutrizionale, perché ci sono tanti ingredienti, ma anche dal punto proprio di vista del gusto, e vorrei commentarla con il dottor Speciani, che sicuramente ce la proverà. Sì, sì, assolutamente. Guardate, innanzitutto la primavera è la stagione in cui le uova sono di più grato sapore, perché l'alimentazione delle galline inizia a migliorare, quindi si parla di galline comunque allevate a terra. E quindi uova assolutamente più di qualità verso la primavera, che iniziano ad acquisire e acquistare più sapori e più sentori grazie alle erbe, grazie alle nuove cose che le galline iniziano a mangiare dai prati. e qui si parte da un uovo livornese. Le galline che mangiano sui prati, mi verrebbe da dire. Sì, assolutamente, la gallina va coccolata. Guardate, io di fronte a uno dei miei tanti libri, perché io sono un appassionato ornitologo, e ho di fronte tutti i miei libri con tutte le varie razze, varietà di galline, dalle Gauloises dorate alle galline livornesi, alle Merlerot. C'è un po' la mia passione, la gallina, no? E qui ci troviamo di fronte quindi all'acquisto di un uovo buono, di buona qualità, che sia biologico o comunque allevato. Ecco, ma dato che noi abbiamo solitamente le uova le acquistiamo, spesso magari al supermercato o al negozio sotto casa, dacci delle indicazioni perché per scegliere anche l'uovo giusto. Sì, beh, lì l'importante è stare sulla classificazione, quindi le uova di gallina, etichettatura, l'etichettatura è importante, quindi partendo da vuoi l'etichettatura all'aperto, a terra, in gabbia oppure biologico, ma comunque che sia, l'importante è un pochettino guardare anche sicuramente la data di deposizione, perché spesso e volentieri invece non la si guarda la categoria e basta, quindi guardate sempre la data di deposizione dell'uovo. Dopodiché, tornando sul discorso dell'uovo ripieno, secondo me non c'è niente di più semplice. Una volta rassodati, tagliati a metà con una lama liscia, leggermente inumidita, la si passa e si apre l'uovo a metà. Ricordatevi che se il tuorlo, questa è bella come cosa, perché è l'esperienza che te le dice certe cose, come diceva l'Artusi, no? Il miglior maestro è la pratica, perché spesso e volentieri ci si lamenta che il tuorlo non è al centro, quindi l'uovo ripieno ti trovi in difficoltà perché è un uovo a sinistra, un uovo a nord, un uovo a est, no? Che guardano un po' dove vogliono, un po' strabico. Allora va bene, ok, ci sta un po' di artigianalità, ma tutto un perché. Allora però noi ci fermiamo. Ta-ta! Allora noi facciamo una pausa. Sì. Polly è d'accordo? Assolutamente sì. A tra poco. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Siete ancora lì e volevate sapere perché quando tagliamo l'uovo sodo lo tagliamo con questa lama bella affilata, non il coltello seghettato, le due metà sembrano un po' diverse perché il tuorlo non è al centro. Lei lo sa, dottor Speciano? Non lo so, ma adesso Sergio, l'importante, sono che l'importante me lo è mangiarlo tutto, lei assolutamente dice. Assolutamente sì. In linea con noi abbiamo Sergio che ci racconterà perché e cosa dobbiamo fare per avere un uovo a regola d'arte, perché oggi è Pasqua, ma l'uovo è un alimento che noi possiamo invitare sulle nostre tavole spesso. Quante uova possiamo mangiare? È una settimana? Delle bellissime domande. I miei pazienti li lascio tutti liberi, nel senso che a parte quei rari casi di ipercolesterolemia familiare in cui indipendentemente uno ha un problema, in tutti gli altri casi sono una fonte sana di proteine e io lascio spazio alla fame. Nel senso che se uno, a volte la gente scrive nei miei blog, ma io ne mangio una o due alla settimana, dico ragazzi, intervengono persone che dicono mangio quattro al giorno e io dico che è assolutamente tranquillo, ma davvero? Ma assolutamente sì, nel senso che la sdoganatura rispetto a questo, teniamo presente che la paura colesterolo è molto più dipendente, ad esempio se uno si mangia delle paste, dei biscotti e dei cracker che hanno dentro comunque il 30% di grassi, 35% di grassi, quindi davvero il contenuto proteico dell'uovo è un contenuto che garantisce determinati aspetti. I grassi saturi, non iperfritti, non ipercotti, quindi fatti ad esempio a 100 gradi come con l'uovo fatto adesso che stiamo discutendo, l'uovo sodo, in realtà hanno delle valenze positive che sono state riscoperte in questi ultimissimi anni. Noi davvero abbiamo demonizzato inutilmente un cibo buono, sano e gestibile perché anche economico, e quindi con serenità. Io lascio spazio di libertà. Adesso quando ha detto, ha sentito quattro uova, Polly è svenuto. Sergio è ancora... Sergio non si è più ripreso, Polly. No. Dice, ma quattro uova al giorno, dice. Allora, andiamo alle uova. Il coltello affilato, si taglia l'uovo, il sì. coltello, la lama leggermente inumidita. Questa sì, sì. è arte. Arte. Leggermente inumidita, e troveremo un tuorlo completamente centrato. A quel punto perché? Perché l'uovo fresco è il tuorlo ben centrato. Quindi si presenta compatto e convesso. L'albume gelatinoso è più brillante, ma se il tuorlo risulta decentrato, vuol dire che già di base, di partenza, l'uovo non stava tanto bene, era leggermente in crisi. Quindi quando per esempio acquistate un uovo, semplicemente mettiamolo in un bicchiere d'acqua, no? Se l'uovo è freschissimo va a fondo, se l'uovo è fresco e resta leggermente sollevato è un po' meno freschissimo, se l'uovo è vecchio galleggia. Vedi? Vedi? Se galleggia non fate le uova ripiene. Direi di no. Andate in crisi. Un uovo in crisi, quando il tuorlo non è in centro l'uovo è in crisi. Ma tu ti vedi? Ma vede quando si parla di allineamento mente-corpo, consapevolezza, ecco, è un uovo non consapevole. Esatto, alla fine l'uovo è una bellissima creatura. Dall'uovo sodo vado a estrarre il tuorlo e io lo lavoro semplicemente come fa la mia mamma, quindi con una forchetta per lasciarlo un po' più arioso. A questo punto vado a fare un battuto di acciughe sotto sale. Come diceva, che un abbinamento perfetto. Must. Esatto, o sardoni a seconda, ma comunque li batto a punta di coltello, quindi finissime, ben battute. Scaricate le vostre tensioni su queste alici. No. Pensate al vostro capo. Fate, tritatelo. Tritate il capo dell'acciuga. Guarda che ti guardano male qui in redazione. Sì, infatti mi manderanno via, ma pazienza. Dopodiché metto due capperini. Io tendo a mettere sempre l'aglio perché, ragazzi, l'aglio fa bene. Adesso sentiamo il dottor Speciani, amico del cuore l'aglio, magari non tanto delle relazioni vicine, ma benissimo al cuore nel senso del muscolo, poi magari alle relazioni di cuore un po' meno bene, quindi bisogna bilanciare sapientemente l'utilizzo da una parte o dall'altra, ecco, dipende. O mangiarli in due, ecco, dipende a che cuore puntate. Esatto. Se puntate al vostro mangiate l'aglio, se puntate a conquistare il cuore di un altro trattenetevi, aspettate almeno qualche quindi giorno. Va bene, aglio o non aglio, ma aglio non aglio, ma l'importante è la convivialità. Ricordiamoci che è il simbolo di fecondità l'uovo, lo so. Eternità. Quindi comunque anche se mangiate l'aglio davanti a un uovo, una cosa tira l'altra. Quindi battete bene il prezzemolo, l'aglietto appena appena, io metto sempre dentro anche due capperi, li batto finemente e vado ad amalgamare il tutto con... C'è chi mette la maionese, prima sentivo chi mette la maionese, io devo essere sincero. Non la mette. Esclusivamente un filo d'olio di quello serio, extravergine, un Brixighella, un Garda, un olio molto intenso. E lo ribatto bene, cioè quindi lo faccio lavorare bene questo tuorlo, dopodiché lo vado a riporre all'interno di ogni mezzo cuscino. E Polly è felice perché Polly fa il festivo. Sentilo, è buono. Anche perché, visto che a casa ci ascoltano in molti, ricordatevi che una volta sgusciate le uova, il guscio non si butta. O lo si dà all'ospite meno lieto, meno gradito, meno interessante, così. Oppure lo si va a tostare in forno, quindi lo si lascia seccare, lo si sbriciola e lo si dà ai propri canarini, ai propri uccellini, perché è calcio, non si butta via niente. Quindi o va nel paggio dell'orto o lo si dà agli uccellini al posto dell'osso di seppia. Guarda, va bene? Senti Polly, senti com'è contento. Polly è contento. Ha Allora, poi ci sono, adesso abbiamo dato, anzi Sergio ha dato la ricetta dell'uovo ripieno, avete ancora tempo per farlo, perché in tutto, quanto ci si mette Sergio a fare? Farlo e voglia, cioè una volta che andiamo a rassodare anche rapidamente in 8 minuti, dopodiché... Dai, 20 minuti è tutto pronto. I bimbi sgusciano, intanto voi lavorate sul ripieno e via, cioè un lavoro di famiglia. È un lavoro di famiglia, ma le uova si abbinano benissimo anche a tutte le erbe di campo e tutte le verdurine fresche e croccanti che salutano la primavera. E comunque vedi che, come sono vedi poetica, che lui, sei stamattina. Fantastica stamattina, oggi la Pasqua ti fa bene. Allora andiamo per erbe. Andiamo, abbiamo un altro amico. Volevamo lasciarlo a casa? No. Assolutamente no. Come si fa a lasciare a casa Fabio Firenzuoli quando si parla di erbe? Buongiorno, buona Pasqua. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Attilio, buona Pasqua. Ciao, buona Pasqua. Senti. Ma poi senti questo accentino toscano perfetto. È l'accentino toscano, purtroppo, o per fortuna c'è. È bello, bello. Adesso non mi piace tanto raccontare, direttore del centro di riferimento per la fitoterapia dell'ospedale Careggi di Firenze, perché a Pasqua sembra un po' che siamo tutti amici, però, esatto. però dottor Firenzuoli, così lei non ha bisogno di presentare, ma intanto l'ho detto, e questo spiega il suo accento fiorentino. Lei è fiorentino proprio, doc? Prima abbiamo avuto un veneziano. Sì, provincia di Firenze. Dai, però, provincia un po'. L'area è quella, l'area è fiorentina. Senta, ma con lei andiamo un po' fuori porta, perché andiamo a raccogliere erbe e ne incontriamo diverse in questa primavera che speriamo sbocci davvero. Molto interessanti. Ecco, stanno arrivando. Perché noi le uova sode le abbiamo, quindi ci prepariamo alla giornata di oggi, al menù di oggi, ma anche poi se domani facciamo un picnic, è un classico, no? L'uovo sodo. Magari lo accompagniamo o andiamo a cercare qualche erbetta. Bella l'insalata di campo, senti un po'. Dottore, che cosa, dove andiamo a cercare? L'erba cularina. Dunque, possiamo, come dire, collegandosi alle uova sode, io ci farei personalmente una bella insalata di tarassaco, cicorie selvatiche e qualche foglia di rocchetta, ovviamente sempre selvatica, e questo per dare un aroma particolare che si abbina bene con l'uovo sodo. Sono erbe che ormai, cioè voglio dire, si trovano dovunque, sono conosciute sia per la forma che per il sapore, per cui non è neanche complicato trovarle, non è neanche rischioso perché si possono confondere con altre erbe. No, queste sono tranquille, sono sicure, sono molto diffuse e tutto sommato possono fungere anche da depurativo, tra virgolette, come si dice, no? Perché stimolano la funzione del fegato, la digestione. Direi che è un ottimo abbinamento. Poi ci sono però delle, le abbiamo già citate, forse le ha citate Alessandro, abbiamo anche la borragine. Ah sì, perché... Bella, un po' pelosina, possiamo utilizzare i fiori e possiamo utilizzare le foglie, ma che effetto ci fanno? Ma guardi, le foglie intanto normalmente vengono utilizzate cotte, appunto perché hanno questi peletti, vengono utilizzate cotte per fare l'impasto per ravioli piuttosto che della verduralessa, e lì si possono abbinare anche alle foglie di ortica e alle quiseto, mentre invece i fiori, e alla stessa malva, gli stessi germogli di malva vanno benissimo anche in alternativa per esempio alle tradizionali bietole o rape. Ecco, invece i fiori della borragine, con i fiori della borragine si possono guarnire da un punto di vista chiaramente estetico, diciamo, e migliorare quindi un piatto che apparentemente possa sembrare smorto, perché hanno un azzurro fantastico i fiori della borragine, non hanno proprietà curative in senso stretto, però possiamo passare per esempio da un'insalata guarnita con i fiori azzurri della borragine a un'insalata condita guarnita con i fiori violetti della viola. Buona. Sì. E allora c'è chi mangia la foglia e chi si mangia il fiore, dottor Speciani. E gli stessi fiori rosa della malva, che possono servire a guarnire a guarnire le nostre insalate, piuttosto che l'ultimo, il fiore giallo del tarassaco. Da una parte utilizziamo le foglie e guarniamo la nostra insalata verde con i fiori gialli del tarassaco. Vedi però che c'è sempre il tentativo di tornare all'unità. Vedi che bello, qui è fantastico. Vede, perché allora la parola chiave di oggi è unità. Allora, ringraziamo il nostro amico, grazie dottor Firenzuoli per essere grazie stato con noi. Ciao, per averci Fabio. Auguri, grazie. Auguri, ciao, auguri, ciao. Un giretto nei campi. Sergio, io torno da te. Certo, posso dirvi due cose? Due, prego. Sì, noi siamo per l'unità. Allora, io ora che andrò verso la casa della mia nonna mi fermo sempre perché con le uova a me piace molto l'aglio orsino e proprio in questi giorni è spuntato. Dal sottobosco, l'aglio orsino è fantastico, depurativo, l'orso si risveglia, da lì il nome, l'orso si risveglia per depurarsi dal lungo letargo, mangia l'aglio orsino. E quindi poi queste le stesse uova che abbiamo fatto prima insieme le decoriamo con i fiori di borragine, quindi ci sta alla grande. Perfetto. Fiori di tarassaco rende l'uovo più giallo se lo mangia la gallina, e inoltre il soffione del tarassaco mangiato dai cardellini vanno in amore, un po' il Viagra del fantastico. Bello, ma cioè, io scusami, non ce li ho i cardellini, lei ce li parte... ha i cardellini? No, non li ho, ma in questa parte ho già sufficienti animali in casa, quindi sono anche i cardellini da tenere. Va bene. Sembra mia mamma lei. Quindi se anziché soffiare sul soffione, che è sempre il tarassaco, lo si mangia, tu dici che ha questo effetto. Anche i semi sono molto stimolanti. Ma no, adesso infatti è andata via il collegamento, un attimo ci siamo, ma quindi la censura, ho capito dottor Speciani che lei sta suggerendo di fare un esperimento soffioni ma... anche non solo ai cardellini. No, io rispondo solo sugli uccelli in ornitologia. Guarda che siamo in orario buono, anche perché noi adesso abbiamo dalle uova, siamo passate ai fiori, alle erbe di campo, ricettine. Abbiamo dato da mangiare anche ai nostri amici pennuti, non abbiamo buttato via niente. Più uova per tutti, lo diceva anche l'Artusi, L'Artusi dice di mangiare tante uova, sai? Vedi, c'ha ragione. Ma vede, ci fermiamo e ritorniamo subito dopo, a tra poco. Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo, la vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. La bufala in tavola. Siamo tornati insieme, accomodatevi se siete lì per... Sedetevi con noi che festeggiamo alla tavola della bufala in tavola la Pasqua, e lo facciamo anche con il nostro consueto appuntamento con... Senti come mangio. Più che senti come mangio, senti come mangia. E cosa mangia? Sa perché, dottore? Voglio saperlo. Le viene in mente? Lei non potrà immaginare di chi stiamo parlando. Beh, però degli indizi tipo la Pasqua, poi ho sentito parlare di cosette... Sì, dai, dillo tu. No, allora, Sergio, pensi che cosa... Chi mangerà, che cosa mangerà un personaggio? E ce lo facciamo raccontare, perché adesso insieme a Roberto Alborghetti, che è un collega... Ciao Roberto. Eccoci, ciao, buona domenica e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te. Allora, il titolo della nostra rubrica settimanale Senti come mangio l'abbiamo trasformata in Senti come mangia, perché parliamo di cosa e come mangia niente po' di meno che... Papa Francesco. Tu hai scritto proprio un libro, A tavola con Papa Francesco, sì. Che sta avendo un successo strepitoso e mangia bene, ma cucina anche bene, gli piace cucinare. Lui era un eccellente cuoco, non sappiamo se ogni tanto adesso con tutti i problemi. Se lo lasciano, se lo lasciano cucinare, ma lui fino a quando non aveva incarichi pontifici sicuramente si metteva ai fornelli, dunque una grande passione per la cucina. E la sorella racconta di lui? Racconta di lui che faceva dei calamari da urlo. Mio fratello mai fa dei calamari sorelle. Da urlo. Il problema è che suo fratello è il Papa. È il Papa, sì. E poi cucinava il maialino ripieno, anche quello, non so se da urlo o da strepito, perché voto 10... perché lo dicevano i confratelli che lui invitava così anche a cene o a pranzi improvvisati. Ecco, vedi? Perché è anche creativo, era anche insomma di quei cuochi che con quello che trovano, voilà, fanno. Esatto. E questa è la scuola davvero italiana, della tradizione italiana, dei genitori, dei nonni, e soprattutto la tradizione italiana del recupero degli avanzi. E dunque lui inventava le pasta asciutte con le polpette, e dunque il riciclo degli avanzi, e dunque era esperto anche in quello che poi è bravo in tempi uno... non sospetti parlava di la tradizione ce l'insegna, perché ci sono un sacco di ricette della nostra tradizione che vanno a riprendere però senti, ma secondo te, così la buttiamo lì, oggi che cosa mangerà? Ma io penso che mangerà le cose più semplici possibili. Penso che un primo sicuramente sarà pasta. Io posso pensare che forse un bel piatto di agnolotti del Plin piemontesi o un risotto alla piemontese. E sicuramente il secondo, lui ama anche il pollo arrosto o l'arrosto. Non so, l'abbacchio, non penso, così conoscendo un po' i suoi gusti, ecco. E non penso forse nemmeno l'agnello, non penso. Senti, ma è goloso? Allora, lui ama proprio i dolci della tradizione argentina, tipo gli alfajores, biscottini ripieni di crema, o il dulce de leche, questa crema molto molto buona, molto dolce, con varie intonazioni, varie declinazioni. Tanto che la signora Merkel, nell'ultima visita che lei fece in Vaticano, gli portò in dono una confezione di biscottini alfajores, e lui so che li gradisce. Dai, carina. Sì. Ti sicuramente leggerà il tuo libro, Ma sì, Germania è già uscito, so che sta andando molto bene. Ma va bene, perché è un libro bellissimo, e io sono molto contenta che Roberto tu abbia passato un pezzettino di Pasqua con noi. Adesso noi tra poco andiamo a rompere l'uovo, ma questa volta di cioccolato. Wow. Ci auguriamo che troviate dei sogni da realizzare in fretta. Dai, no? Speriamo. Fare così. Grazie, un abbraccio Roby. Grazie. A voi tutti. Ciao, buona Pasqua a tutti. chi rompe paga, i cocci sono suoi, mi piace, no? Sono nostri, eh? Assolutamente, ce li teniamo, sono buoni. Anche perché quante volte abbiamo parlato di cioccolato? Ma che buono, che buono, io lo amo. Tra l'altro, non mangiando dolci fondamentalmente, l'unico dolce che amo è poi il cioccolato. Cioè, e quindi deve essere nero, perché sì, perché quindi con meno zucchero, fatto in un certo modo. E come lui diceva prima, Sergio, che le uova galleggiano, anche il cioccolato, se è nero, è sicuramente qualitativamente te ne accorgi. Perché per truccare un cioccolato finto si fa in fretta, no? E quindi è meglio se è di buona qualità, con mi piacciono certi tipi di gusti, e poi ha dentro delle proprietà che sono antidepressive, sono di protezione ad esempio dell'apparato cardiocircolatorio. Guarda, sta anche cambiando, parliamo di bufala, un po' questo concetto che si diceva vino veleno, caffè veleno, no? Da piccolini. In realtà molte di queste cose, ad esempio sul caffè, sul cioccolato eccetera, si stanno scoprendo degli elementi decisamente positivi, e quindi benvenga il cioccolato. Tira su. È amico del cuore. Assolutamente sì. Non ha colesterolo. No. È vero? Ma in mente te lo fa venire se lo mangi di quelli un po' artefatti, molto dolcificati. Questo è un problema. Però noi scegliamo di qualità. Ecco, sì o non no? Non a caso veniva chiamato il cibo degli dèi. Esatto. Teobromina. Ma allora facciamo come Sergio ha suggerito. Non buttiamo via niente. Figurati se buttiamo via il cioccolato. Abbiamo rotto, magari tra poco romperanno anche le uova di cioccolato i bambini. Si arriva poi dopo Pasquetta con tutti questi cocci di cioccolato. Sergio, in due minuti raccontaci che cosa possiamo farne. Li mangiamo meglio a colazione, vero dottor Speciani? Sicuramente sì. Ecco, il momento pane adatto. Cioccolato ai nostri bambini a merenda, pane integrale, meglio se integrale. Brava. Gli diamo magari anche una noce da coso, e loro sono a posto, e anche noi. Ma se volessimo fare un po' gli splendidi, Sergio? Secondo me potremmo giocarcela così. Allora, la zucca l'abbiamo trasformata in carrozza e l'uovo lo trasformiamo in salame. Quindi diciamo semplicemente che ai bambini piace un sacco, ma anche ai grandi. Dai, io ho di fedde e salame, sempre buon. Allora, cosa fai? Sciogli il cioccolato fondente, quindi non oltrepassatelo mai. Scioglietelo un minuto al microonde, bassa potenza, oppure al bagnomaria, ma non oltre 50 gradi. Una volta sciolto, quindi reso fuso, io prendo semplicemente dei biscotti secchi e li vado ad ammorbidire leggermente con del latte di mandorla. Se volete dolcificare, ma giusto massimo latte di mandorla, non quello zuccherato, vado a mettere un cucchiaino di miele d'acacia e basta, quello di Robinia. Dopodiché cosa vado a fare? Aggiungo questi biscotti, il cioccolato fuso, delle buona frutta secca ma da guscio, quindi pistacchi, poi pinoli, noci, mandorle, noce. Andiamo qua, bene. Qua c'è il dottor Noce, andiamo. Carmelo in regia fa questa sa farla anche Carmelo per le sue bambine? No, ma lui se la cava. Abbondiamo di aglio, no, attenzione, quindi abbondiamo di noci, amalgamiamo il tutto e poi sapete cosa faccio, a me diverte un sacco, do forma cilindrica, salame con carta da forno e stagnola che va in pressione e si chiude come una caramella, lo facciamo raffreddare velocemente in freezer, quindi la parte fredda, dopodiché lo tiro fuori e qui è la chicca, qui scende giù il terzo anello, praticamente cosa succede? Che lo si va a far roteare, divertendosi con i propri bambini, in un composto che può essere una farina di mandorle o il classico zucchero al velo o altro. E cosa si fa? Semplicemente lo si va a legare con uno spago, dopodiché lo si conserva in frigorifero. Quando si ha voglia di una coccola, lo si tira fuori, trac, via una fettina e sembra proprio un salame, perché è il pistacchio, la mandorla e la noce. Buono. Allora, non mangiate tutte le uova di cioccolato, non finitele tutte, perché poi dobbiamo preparare il salame con la ricetta del nostro amico Sergio. Così lo pensiamo fino all'estate. Altro che signor Alloro, signor salame di cioccolato. Salame. Grazie, buona Pasqua, un abbraccio. Ciao, buona Pasqua. Grazie. Ma noi ci vediamo prima di Natale, no? Noi sì. Adesso andiamo insieme a mangiare un po' di uova anche adesso, noi. Adesso di corsa. Buona giornata, buona Pasqua. Noi ci sentiamo domani, sempre insieme, a partire dalle 6:15. Vi aspetto.